Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 415, nella quale parleremo di presidenti antiquati e pensiero primitivo, zanne proibite e cacciatori riconoscenti. Speriamo di avervi incuriositi. Il futuro per gli animali sembra non arrivare mai, e questo è il commento che sorge spontaneo alla notizia che il presidente francese ha portato un cavallo in regalo al presidente cinese Xi in occasione del suo viaggio in Cina. Vesuve de Breca è il nome del disgraziato baio di 8 anni che, dopo aver fatto parte della Guardia Repubblicana, ha dovuto anche subire un viaggio aereo fino a Pechino per andare incontro a non si sa bene quale destino. La diplomazia del cavallo francese risponde alla diplomazia del panda inaugurata a Pechino nel 2012, quando la Cina donò 2 panda alla Francia. Nel 1972 un elefante fu donato dall'allora presidente indiana Indira Gandhi al maresciallo Tito, presidente fino al 1980 della Repubblica di Jugoslavia e leader dei paesi non allineati. Ma per gli animali, il sol dell'avvenire, evidentemente, non è mai sorto. Lunedì 15 gennaio alle ore 12 si terrà la terza udienza per il processo a carico delle attiviste e degli attivisti del coordinamento Fermare Green Hill, che il 20 aprile 2013 occuparono gli stabulari del Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano. Il processo intentato da Università degli Studi di Milano e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Neuroscienze, vede gli attivisti imputati dei reati di invasione di edificio pubblico, violenza privata e danneggiamento. La liberazione di 400 topi e un coniglio è stato un esito del tutto imprevisto che venne ottenuto sul momento trattando l'evacuazione dei locali. Gli imputati hanno sempre dichiarato di avere compiuto un atto di disobbedienza civile e che erano consapevoli delle conseguenze penali. Era importante portare all'esterno di quelle mura le immagini della terribile normalità della vita di migliaia di individui rinchiusi in gabbia e ridotti a oggetto. Per quei corpi non c'è alcuna protezione, in quanto la pratica della sperimentazione animale è legale ed è finanziata copiosamente attraverso sovvenzioni pubbliche e raccolte di fondi, come per esempio Teleton o AIRC, che proprio al Dipartimento di Neuroscienze hanno versato parte delle donazioni ricevute. Dalle ore 11 di lunedì 15 gennaio si terrà un presidio degli attivisti. Per informazioni potete consultare il sito internet www.dentrofarmacologia.org, che raccoglie testimonianze, documenti, informazioni. Dal portale Vegolosi apprendiamo che Netflix inaugura il suo nuovo anno con Rotten, che significa marcio, una docuserie di 6 puntate visibili a partire dal 5 gennaio 2018, in cui si porteranno alla luce segreti e verità da brivido celate dal mondo della produzione alimentare, anche quella di carne e pesce. Frodi finanziarie, sotterfugi e inganni sono l'ordine del giorno di quello che ormai ha tutte le carte in regola per essere definito come un impero del crimine. Rotten non è un documentario come Cowspiracy, non punterà l'attenzione sul benessere degli animali, ma sul sistema di produzione del cibo. Uno sguardo allargato che permetterà però di comprendere meglio perché sia proprio questo sistema a generare mostri, soprattutto nelle produzioni di cibo animale. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza, dice Stephen Hawking, e nessuna citazione sarebbe più appropriata in campo alimentare. Per anni siamo rimasti convinti di conoscere perfettamente le regole che governano l'industria alimentare, ma forse abbiamo semplicemente preferito non porci le domande giuste. Centrale e fondamentale della più ampia questione ecologica. Non saremo mai in sintonia con la natura finché non lo saremo con gli altri animali e con l'animalità, dal momento che, come scrive Jim Mason nel suo splendido libro Un mondo sbagliato, per la nostra storia evolutiva gli animali sono i nostri antenati, i nostri parenti più prossimi e rappresentano per noi la componente più importante della natura. Eppure chi si occupa della questione animale viene spesso ridicolizzato e osteggiato perché la tradizione culturale è ostile sia alla natura sia alla nostra stessa natura animale, che viene insistentemente controllata e sottomessa. Tra le molte domande che vanno correttamente poste per inquadrare la questione animale ce ne sono alcune che ci sembrano particolarmente interessanti. Da quando l'uomo ha cominciato a collocarsi al di sopra e non sentirsi più parte del resto del mondo naturale? I primitivi si sentivano già superiori rispetto agli altri animali? Quando ha avuto inizio la domesticazione della specie umana? Secondo la corrente culturale primitivista, una corrente di pensiero che esprime una critica radicale alla civilizzazione, c'è stata una fase storica in cui l'uomo ha vissuto senza quel delirio di onnipotenza che ci fa credere di essere migliori e più meritevoli di tutti gli altri viventi. C'è stata, insomma, un'umanità precedente alla civilizzazione che per vivere non sfruttava gli animali e nemmeno se stessa. Oggi cercheremo di capire il punto di vista primitivista attraverso le parole di Enrico Manicardi, autore e pensatore primitivista. Sentiamo il servizio a cura di Silvia Garatti. Il primitivismo è un movimento di critica radicale al processo di civilizzazione. Uno dei principali teorici ed esponenti italiani del primitivismo è Enrico Manicardi, 51 anni, avvocato, appartenente sin da giovane al movimento anarchico. Da uno dei suoi scritti, il libro intitolato Liberi dalla civiltà, si evince come il processo di civilizzazione sia caratterizzato da una mentalità di dominio e di sopraffazione, che ha trasformato e trasforma terra, altri animali e umani da soggetti con i quali convivere in oggetti da usare e sfruttare. Tale processo avrebbe avuto origine circa 10.000 anni or sono con l'avvento dell'agricoltura, pratica che ha soggiogato la terra e a cui ha fatto seguito la sopraffazione degli animali con gli allevamenti, delle donne con le società patriarcali, dei diversi e soggiogabili con la schiavitù e degli umani tutti con il lavoro dipendente e la massificazione. Come ci dice Manicardi, il primitivismo analizza gli elementi e le circostanze che sono all'origine della civiltà, che a sua volta ha separato l'umano dal suo contesto naturale in modo via via crescente fino a giungere al nostro malessere. Il processo di civilizzazione ha dato origine a quegli stessi fenomeni da cui ha poi tratto e trae sostentamento, quali l'economia, la tecnologia, la cultura, fenomeni che allontanano appunto l'umano dalla natura. L'analisi operata dal primitivismo non ha mere finalità speculative, ma vuole essere strumento di indagine che consenta di trarre spunti per un diverso modo di vivere e convivere. Sentiamo allora da Enrico Manicardi qual è la visione primitivista riguardo alla cosiddetta questione animale. Parlare della questione animale da una prospettiva primitivista, e cioè di critica radicale alla civilizzazione, significa parlare di un aspetto più generale del problema, che è quello della domesticazione, a cui però è sottoposto tutto il vivente. Significa cioè parlare di come la nostra mentalità civilizzata imprigiona, sottomette, manipola, costringe, sfrutta tutto il vivente. Con l'avvento della civiltà, gli animali sono passati dalla condizione di soggetti a quella di oggetti inetti alla vita libera. Una mentalità che ancora oggi ci pervade, infatti ancora oggi l'animale è considerato per lo più un bene utile, non un individuo. Utile perché è concepito come uno strumento di reddito, utilizzato come cavia, ridotto a macchina da lavoro, fenomeno da baraccone, e persino trattato alla stregua di un articolo da compagnia, e cioè impiegato per cercare di rintuzzare quella solitudine, quell'isolamento in cui ci confina il mondo moderno, un mondo sempre più individualistico, eroso nello spirito comunitario, disamorato, cinico, triste. Ma questo non è stato il solo modo col quale noi umani ci siamo relazionati al mondo animale e al vivente in generale. Quella originaria identificazione tra individuo umano e non umano che permeava la sensibilità del raccoglitore e cacciatore è rimasta inalterata nei popoli non addomesticati, e cioè non civilizzati. Ci sono pagine e pagine strabilianti di letteratura antropologica che ci raccontano di come i primitivi siano sempre stati in grado di sentirsi profondamente uniti con le componenti vive della terra, di sentirsi come loro e di arrivare fino a comprendere il loro punto di vista. L'antropologo Marshall Salins ha riassunto molto bene il modo di vedere le cose dei primitivi. Le persone umane, ha scritto, non sono poste al di sopra in contrapposizione a un contesto materiale di natura inerte, ma sono piuttosto una specie di persone in una rete di persone interdipendenti. Questa sensibilità oggi non esiste più tra i civilizzati, tramutata nella migliore delle ipotesi in salvaguardia della specie, in vocazione difensiva, in tutela legislativa. Tutte propensioni mosse da buone intenzioni, non c'è dubbio, ma che ancora una volta si reggono su di una visione antropocentrica che mette l'umano sopra le altre specie e a disporre delle loro condizioni. Occorre invece comprendere che il rispetto della sensibilità e della libertà degli animali significa per loro libertà di crescere e muoversi nel proprio ambiente ecologico, di nutrirsi del cibo più adatto fisiologicamente alla propria natura e di procacciarselo autonomamente, libertà di interagire con gli altri membri della propria specie e col vivente intero senza condizionamenti imposti dall'esterno. Libertà di godere della vita, di mettere al mondo cuccioli e crescerli secondo il proprio sentire, libertà di scegliere dove e come vivere e dove e come morire. Troppo spesso ricorriamo a misure che solo apparentemente stanno dalla parte degli animali, ma che in realtà depongono per uno sfruttamento semplicemente più etico e più sostenibile. Fintanto che continueremo a credere che il problema sia quello di ampliare le gabbie degli allevamenti, o di ridurre i dosaggi di ormoni e farmaci che somministriamo loro, o di sottoporli alla profilassi vaccinale, o di proteggerli rinchiudendoli in abitazioni, città, giardini, parchi e riserve naturali, il rapporto di sfruttamento e di dominio che la nostra mentalità civilizzata esercita sul vivente non cesserà, ma possiamo cominciare a cambiare le cose e possiamo farlo mutando radicalmente la nostra mentalità. Dobbiamo ridare alla natura il significato di soggetto, altrimenti la corsa che abbiamo intrapreso verso la sottomissione e la distruzione di tutto e di tutti ci travolgerà. O torneremo a diventare parte integrante della natura o la civiltà ci sopprimerà. Sopprimerà gli animali selvatici, le piante selvatiche, le foreste vergini, i fiumi, il cielo, il vento, noi stessi e tutto il resto. Il senso, lo spirito, la forza del primitivismo e anche nella resistenza radicale a questo silenzioso ma progressivo annientamento. Chi volesse approfondire l'argomento, il primitivismo, può consultare il sito www.enricomanicardi.it. Scartabellando tra i ricordi di canzoni in stile animalista, mi sono ricordato di una canzone che probabilmente molti di noi conoscono, ma che forse il significato è un po' sfuggito, ma l'interprete e autrice, ovvero Chrissie Hynde, ce lo fa vedere sotto un'altra luce. Parliamo di I'll Stand By You, The Pretenders, che lei ha affermato essere una canzone dedicata ai diritti degli animali. E più o meno dice: sono molto simili a te. Quando ti trovi al bivio e non sai quale strada scegliere, lasciami venire perché io starò vicino a te, non lascerò che nessuno ti faccia del male. Torniamo indietro nel tempo e ricordiamoci di questa bellissima I'll Stand By You dei Pretenders. Buon ascolto. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, dotato della presunzione di cui parlavamo, quella che fa sentire l'umano padrone della natura e di tutti gli altri animali, è sicuramente il cacciatore protagonista del libro Bestie, romanzo per ragazzi scritto in maniera cruda da Antonio Ferrara, che vi presentiamo oggi nella nostra rubrica di libri dedicata ai bambini che amano gli animali. Fermi, tanto non farete mai centro. La bestia che cercate voi, voi ci siete dentro. Questa frase, tratta da una poesia di Giorgio Caproni, anticipa il primo capitolo di Bestie, il romanzo per ragazzi scritto in maniera cruda da Antonio Ferrara. È forse proprio quella bestia interiore che lui, il cacciatore protagonista e narratore della storia, non vuole riconoscere e cerca di estirpare da sé in maniera devastante, annichilendo, predando, infierendo su quegli animali selvatici che ovunque nel mondo stana fino al midollo. In Africa, al circolo polare, nei boschi, sul fiume, sui ghiacci, nella savana, nessun posto viene risparmiato dal suo fucile, dal suo bastone, dal suo coltello, dalla sua canna da pesca. Del resto, diceva lui, le bestie sono fatte per essere uccise, catturate, mostrate, mangiate, consumate. Così ogni giorno, ogni notte, fino a quel momento in cui qualcosa cambia nella sua vita, scandita da spari e trofei. Arrivano loro, i nuovi vicini di casa. Tre bambini e un'oca, o meglio, lo smilzo, la nana e il testone, e una stupida oca, come li chiamava lui. Come ti chiami tu? Io? Mi chiamo Ernesto, e io mi chiamo Tano. Io invece Rita. E a lei non glielo chiedi come si chiama? Eh no, che non glielo chiedo. E perché non glielo chiedi? Perché è un'oca e le oche mica parlano. Le altre, la nostra parla invece. Ah sì? E cosa dice? Dice il suo nome se glielo chiedi. Ma va? E come si chiama? Si chiama Quaquà. I viaggi intanto proseguivano senza sosta, senza pietà, con quella fame insaziabile di prede da portare a casa e da esibire. Tutte tranne l'oca. Lei era sempre lì, a casa, in giardino, dietro la rete a giocare a palla o con i rami insieme ai bambini. Era sempre lì e non poteva nemmeno spararle, non poteva farci nulla. Ma cosa credete di farci con quest'oca? La proteggiamo. La proteggete? E da cosa? Da tutte le cose brutte che fanno alle oche. E cosa fanno alle oche? Le ingozzano, gli infilano a forza con l'imbuto la roba da mangiare giù per il collo, così ingrassano e il fegato d'oca viene meglio. A me il fegato d'oca piace. E poi quella cosa delle piume. Che cos'è sta cosa delle piume? Gliele strappano a mano, da vive, non lo sai? Deve fare un male boia. Ci puoi giurare, come se ti strappassero i capelli. Ed ecco che quell'oca, alla quale avrebbe volentieri tirato una schioppettata, che starnazzava sull'albero impaurita, proprio lui, non si sa perché, lui, il cacciatore che non risparmiava nemmeno un animale, si ritrovava a salvarla e a riportarla giù, guadagnandosi una sonora beccata sul naso e un timido grazie dai bambini. Buttati, buttati, ti prendo io! Chi l'ha messa lassù? Nessuno, c'è andata da sola. Quel ramo è nel mio giardino. Lo sappiamo, scusi. Il tempo passava, l'oca era sempre lì, finché un giorno... Vi avviso, per l'ultima volta, se vi sento ancora fare baccano, vengo di là. A voi tre le suono come un tamburo e a quell'oca tiro il collo e ne faccio salami, giuro! Sì, aveva deciso, l'avrebbe fatta fuori. Era tutto pronto, il fucile di precisione, la cartuccia, l'appostamento dietro alle gardenie. E proprio quando stava per accarezzare il grilletto... C'era mancato così poco, ma il cacciatore era pronto per un nuovo tentativo. Questa volta avrebbe tirato fuori l'artiglieria pesante. La tagliola. E proprio quando l'oca stava per assaggiare l'insalata come esca... Il cacciatore era rimasto impigliato nella sua stessa trappola. No, non era morto. Accanto a lui c'era qualcuno. C'era proprio lei. Che a furia di saltelli e colpi d'ala era andata a chiamare aiuto e che gli aveva salvato la vita. Una vita che da quel giorno per lui cambiò radicalmente. Come? Per saperlo non vi resta che leggere il libro. Bestie, di Antonio Ferrara, a partire dai 12 anni, editore Einaudi Ragazzi, 144 pagine, 11 euro. You and me. faintly saw the vision. Hope to make. È il momento della nostra rubrica settimanale dedicata alla cucina cruelty free, il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. Sentiamo l'audio ricetta che ci propone questa settimana il nostro tosco vegan chef. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Per restare in tema di primitivismo, oggi parliamo di quello che probabilmente può essere il cibo più antico cucinato dall'essere umano. Sicuramente con gusto, forma e procedura molto diversi da quello che conosciamo e consumiamo oggi quotidianamente, ma il pane era conosciuto e utilizzato già nel Neolitico e sembra proprio che in tutti questi anni non abbia perso il suo fascino nell'intero pianeta. In virtù di quanto detto, ecco la ricetta per la focaccia morbida ai grani antichi. Gli ingredienti per una teglia da forno di circa 30x40 sono 200 g di farina di grano tenero tipo 0, 200 g di farina di grani antichi o farina integrale, un cucchiaino di malto di orzo, 150 g di lievito madre fresco, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, il succo di mezzo limone, del sale fine e del sale grosso. Licantropo vegano. Impastate la farina a zero assieme a 100 ml di acqua tiepida, il malto di orzo e il lievito madre. Lavorate bene fino a formare un impasto liscio e ben compatto che farete riposare per un'ora in un luogo asciutto e coperto da un panno. Una volta lievitato aggiungete la farina di grani antichi, l'olio extravergine, ancora 100 ml di acqua tiepida, un po' di sale fino e impastate fino ad ottenere un impasto molto soffice. A seconda dell'impasto, se necessario, aggiungete un po' più di acqua. Lasciate lievitare ancora un paio di ore e successivamente stendete l'impasto con le mani in una teglia che avrete spennellato con abbondante olio. Quando sarà ben distesa, lasciatela lievitare fino a raddoppiare il suo volume. Nel frattempo emulsionate il rimanente olio extravergine di oliva con il succo di limone. Quando sarà lievitata, scaldate il forno a 200 gradi e con le dita formate dei fori sopra la focaccia nei quali verserete l'emulsione di olio e limone e qualche chicco di sale grosso. Fate cuocere a forno statico a 200 gradi per 20 minuti e servite calda. Siamo in chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 416 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.